Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Fulvio Lucisano, il cavaliere del cinema, di Marta Cagnola. Io ho iniziato l'incontro con il cinema occupandomi nel 1949, fine 49-50, avevo incontrato degli americani e mi ero occupato di fare un film sull'anno santo. A me il cinema era sempre piaciuto, andavo spesso ai cosiddetti pidocchietti, dove al cinema Eden, che ancora esiste, si pagava una lira per due film. Ho avuto occasione di incontrare questi americani che volevano fare un film sull'anno santo. Io, che seguivo un pochino il cinema, la prima volta di un documentario a colori, oltretutto, che era una cosa sconosciuta in Italia allora, mi davano una cifra settimanale paurosa, che non prendevo un impiegato dello Stato in un mese. Se non sbaglio erano 250.000 lire a settimana, che era una cifra paurosa. Da lì ho incominciato proprio a occuparmi seriamente di cinema. Fulvio Lucisano, romano, classe 1928. Nei primi anni 50 esordisce nel cinema, produce, organizza. Nel 1958 fonda la Italian International Film. In oltre 50 anni ha distribuito e prodotto più di 500 film. Lucisano è stato per due volte presidente dell'Unione Produttori e per due volte anche presidente dell'ANICA. È stato premiato con 4 Nastri d'Argento e 4 David di Donatello e ha prodotto 2 film candidati al premio Oscar come miglior film straniero. Nel 2005, nell'ambito del Festival del Cinema di Venezia, Fulvio Lucisano ha ricevuto un omaggio alla professione. 2 anni dopo è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Tutto nasce, come racconta lui stesso, da quel lontano documentario. Tanto avevo preso tutto personale italiano in questo cortometraggio, tra cui 2 assistenti operatori che erano italiani, tra cui c'era Giuseppe Rodunno, che poi ha terminato il film perché l'americano direttore della fotografia si ubriacava sempre e l'ha terminata lui. Dopodiché io mi sono cominciato a occupare di documentari. Uno dei miei primi documentari era su Piazza Navona, con la banda municipale che suonava. Trinità dei Monti, aerea e fantastica. Piazza Navona, barocca e popolare. Questi primi film sono all'inizio appunto degli anni 50. Come è successo che poi lei ha deciso di fondare appunto una sua società? Le dico, io ho lavorato molto con la Documento Film, con un personaggio come Gianni Ect Lucari, che con la Documento Film aveva quasi il monopolio documentario in Italia, e facevamo dei bellissimi documentari. Erano più che documentari, cortometraggi e documentari. E poi invece i primi film? Il primo film mio è stato un film che si chiamava I 4 del getto donante, per la regia di Fernando Cerchio, attori Massimo Girotti, Andrea Checchi, Don Adams. Stupidamente io l'ho fatto in Vista Vision, con una macchina che avevamo costruito insieme a Giovanni Ventimiglia, che poi era diventata Vista Vision, la Technicolor comprò il brevetto. Mi è rimasta una copia per sbaglio che ho fatto portare su DVD, ma sto cercando di vedere se posso ricostruire. Costa soltanto ricostruirlo dal Vista Vision, mi costa credo 70-80 mila euro, che è una grossa cifra, ma io spero di convincere la mia società a farlo, se le mie figlie me lo consentono. Esatto, a questo punto quando bisogna convincere la società, bisogna convincere le figlie. A questo punto sì. Noi che abbiamo qualche annetto di meno, ci immaginiamo questo cinema dei primi anni 60 a Roma come un ambiente magico. Era così? Assolutamente sì, guardi, noi riuscivamo a far tutto, riuscivamo a copiare film americani. Io ho fatto film Berlino Appuntamento per le Sfere, copiando 007, con un attore allora straordinario che si chiamava Dan Andrews, che venne dall'America apposta, e l'abbiamo girato per esempio in Giordania. Sligala, tra poco verrà Boris a portarla via. Sta fermo, è meglio per te. Ci mancava il truccatore, Dan Andrews entra nel negozio di barbiere e si trucca da solo. Erano altri tempi. Comunque adesso quando vedo in un film che abbiamo 60-70 unità, mi viene il giramento di testa. E con Mario Bava, per esempio, abbiamo fatto un film che si chiamava Terrore nello spazio. Io sono andato alla MGM 4 anni fa, mi hanno richiesto la firma su un poster considerato un cult movie negli Stati Uniti. Deve essere molto antica. Guarda com'è corroso e rovinato lo scafo. Non ho mai visto un'astronave simile. È di forma e concezione completamente sconosciute per noi. Ah! Guardatela! È orribile. Umanoidi di proporzioni colossali. 3 volte almeno la nostra statura. Kel, resta qui e tieni gli occhi bene aperti. Va bene. Sania e io diamo un'occhiata all'interno. Se quello si muove, chiamaci. D'accordo. E poi c'è stato anche sempre con Mario Bava Le spie vengono dal semifreddo. Esatto. Siamo riusciti a farlo circolare anche negli Stati Uniti. Siamo appunto nel 65-66. Sì. Venivano prodotti tantissimi film all'anno, quindi insomma l'industria cinematografica era un'industria comunque importante. Il cinema all'epoca realizzava circa 700-800 milioni di biglietti l'anno, che era una bella cifra. Ma lei come decideva quali film produrre? Ma in genere, per esempio, quando abbiamo fatto Cosa avete fatto a Solange con il regista Massimo Dallamano, stavamo parlando di alcune cose tra di noi, ma perché non facciamo una cosa così? Da lì, incontrandoci, si riusciva a parlare. Ma come mai lei ha deciso di dedicarsi soprattutto a questo genere di commedie di grande successo in quegli anni? Io ho fatto sia le commedie che con film di genere, dico Solange per esempio, ma poi lei pensi che, per esempio, Il ladrone, io l'ho fatto parlando con Pasquale Festa Campanile, con il quale eravamo sempre in accordo su quelle cose. Alla fine lui aveva venduto il libro a un altro, me lo sono andato a ricomprare io e abbiamo fatto girare il film in Tunisia, ma girandolo in condizioni che non le dico, però il film è ancora oggi, me lo sono rivisto recentemente, è ancora un bellissimo film. A quali film lei è particolarmente legato? Lo so che è difficile da chiedere a un produttore, però forse qualcuno nel cuore ce l'ha in particolare. Beh, guardi, certamente sono i film che hanno dato più successo. Io è meglio che non gli dico i fiaschi che ho fatto e i film mancati. Voglio proprio saperli allora. Io ho fatto un film che si chiama Dio perdona, io no. L'ho finito. Poi ha avuto una discussione con il regista, che era Colizzi, e lui mi ha offerto una cifra paurosa per ricomprarselo. Io ho detto di sì. Mi sono mangiato il fegato per 3 anni. E invece i film che non è riuscito a fare? Sono molti. Ogni tanto mi ritorna la voglia di rifare cose che avevo abbandonato, ma certe volte uno è considerato un sorpassato, allora mi sto zitto. Ma in oltre 50 anni, Lucisano, ci sono stati anche tempi duri. Ci ha aiutato molto, adesso noi ci occupiamo anche di televisione, facciamo dei programmi anche per la televisione, ma certamente sono stati gli anni peggiori, anche perché ancora oggi non c'è un grosso, il mercato del cinema è dopato. Se non si trovano delle sistemazioni diverse è difficile continuare a fare cinema. E quanto sono importanti gli incontri nel mestiere di produttore? Gli incontri, quello per esempio con Troisi, è stato un incontro intelligente, nel senso che lui aveva portato un soggettino che era quello di Ricominciare 3. Io gli ho messo uno sceneggiatore alle spalle che era Ottavio Iemma. Lì abbiamo lavorato moltissimo sulla sceneggiatura, tant'è vero che il successo del film, secondo me, è dovuto a una cosa estremamente importante. Troisi ripete le cose 2 volte, anche se uno non lo capisce la prima volta, lo capisce la seconda volta. Venendo al presente, lei ora alla Italian International Film è affiancato dalle sue figlie, Paola e Federica. Sono molto contento del lavoro che fanno le mie figlie, gli ultimi successi degli ultimi 4-5 anni li devo soltanto a loro. C'è stato proprio una sorta di rinnovamento, siete riusciti a creare una sorta di come fabbrica di talento, di idee nuove. Com'è nata questa nuova vita? Ci abbiamo anche avuto degli insuccessi prima che ci hanno un pochino insegnato come funzionare. Se parliamo della notte prima degli esami, la notte prima degli esami era un copione che aveva circolato per tutte le produzioni. Quando mia figlia Federica me l'ha dato, io ho detto, dico, non lo perdere di corsa, per carità, è una storia favolosa. Antonio Martinelli, il professore di lettere più bastardo della storia dell'umanità, soprannominato La Carogna da 4 generazioni di studenti. Io per lui non ero una persona, ero soltanto un numero, e precisamente un 6-. Abbiamo fatto con attori di nessun richiamo allora, anche se erano bravissimi, però il vero problema poi succede che sono cambiate le situazioni in Italia, ma nel mondo. Quando noi uscivamo con un film, ai tempi spendevamo una cifra minima di copie e pubblicità. Oggi lei, se vuole un film di successo, deve spendere come minimo dal 1,5 milioni ai 2, soltanto di copie e pubblicità, che è una follia. Quando mediamente un film italiano costa dai 3,5 ai 4. Un consiglio ai giovani che volessero fare produttori? Ma intanto direi di studiarsi bene le storie, perché guardi, se ha una buona sceneggiatura farà sicuramente un discreto film, se non un buon film. Il vero problema sono le sceneggiature, noi non abbiamo il tempo di rivederle, di ricontrollarle e di pensarci sopra, perché abbiamo già l'impegno a fare il film immediatamente. Questo è invece un ripensamento sulle sceneggiature di estrema importanza. Io ho fatto un film, Cemento Armato, che è un bellissimo film, non ha avuto il riscontro che noi ci aspettavamo. E il film è un ottimo, non ho niente da dire sul film, è un ottimo film. Forse non erano maturi i tempi, forse su certe cose abbiamo fatto delle scelte sbagliate, ma insomma, del senno di poi purtroppo è difficile poter giudicare. Lei che ha visto più di 50 anni di cinema, come vede il futuro? Ha qualche desiderio ancora da realizzare? Vorrei cercare di fare delle cose nuove, tenendo presente anche le nuove tecniche e il 3D. Nessuno ha pensato che bisognerà fare un film in 3D, io sto pensando, lavorando a un film, un progetto in 3D. Vorrei fare un film su, specialmente questi film per i ragazzi. Io trovo che l'Italia manca di questo genere di film, che sono molto difficili, perché per conquistare il pubblico c'è indubbiamente la Disney, che fa dei film stupendi, però noi non siamo riusciti a catturare un pubblico di giovanissimi. E per quanto riguarda i nuovi modi di fruire del cinema, lei come li vede? Sempre più computer, televisione, on video? Io ancora sono rimasto incatenato a una frase che Jack Valenti, che era presidente dell'AMPA, che diceva questo: il fascino irresistibile di un film visto al cinema, l'incantesimo di una storia che prende vita e si dispiega sullo schermo di una sala buia. Seduti accanto a sconosciuti compagni, di una sola sera si trasmettono oramai da 4 generazioni in tutta la loro magia. Questo è quello che io vedo. Vedermi il DVD a casa da solo a me mi dà fastidio.